America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, beh, vorrei aprire con una storia che ha dominato ieri Angelina Jolie, una delle più grandi attrici americane, una più grande attrice del mondo, ha annunciato con un articolo sul New York Times di essersi sottoposta a una doppia mastectomia, cioè l'asportazione di entrambi i seni, perché aveva scoperto di avere un gene, il BRCA1, BRCA1, che è un gene che è indicativo di una predisposizione ad avere un tumore al seno, un tumore ovarico, soprattutto un tumore al seno, e la combinazione delle probabilità portava al rischio di avere un 87% di possibilità di avere un tumore. E dunque Angelina Jolie, che ha perso la madre appena qualche anno fa, ha deciso col marito Brad Pitt, una delle coppie d'oro di Hollywood, di sottoporsi a questa operazione. Hanno 6 figli e ha detto: sono molto felice, soprattutto perché so di avere rassicurato i miei figli. Ecco, qui ad America 24 abbiamo cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana proprio sulla questione della mastectomia e del rischio genetico per il tumore al seno, che è un male gravissimo per le donne. E quindi vi rimando al nostro sito, al sito di Radio 24, dove abbiamo una sezione dedicata appunto a Angelina Jolie e dove ci sarà anche questa puntata. Ma oggi ci sono argomenti politici molto, molto importanti, con una tematica e un interrogativo di fondo, che Barack Obama si è aggiunto alla maledizione del secondo mandato. Ieri pomeriggio alla Casa Bianca, il corrispondente della Associazione di Presa, avete sentito provocatorio, chiede a Jay Kahn, il portavoce di Barack Obama, di rendere conto su una violazione gravissima da parte dell'amministrazione Obama, del Dipartimento della Giustizia e dell'FBI, e cioè l'aver spiato su 20 linee telefoniche della AP e di aver messo a rischio la privacy di un centinaio di giornalisti per cercare di capire, attraverso una ricostruzione delle conversazioni su queste linee telefoniche, chi potesse essere la fonte di una notizia che la AP aveva disseminato, rivelando un tema, diciamo, che poteva essere importante o grave per la sicurezza nazionale americana. L'episodio risale all'anniversario della morte di Osama Bin Laden. La notizia è che la CIA era riuscita a sventare il possibile attentato contro una linea aerea americana. Non si sapeva molto di più, ma questa notizia ha preoccupato l'amministrazione. Chi ha rivelato un segreto top secret alla AP? E da lì è partita l'investigation. Ma la domanda a Jay Carney è molto più diretta, perché ci sono una gran quantità di episodi. Il presidente è assediato da una parte lo scandalo AP, dall'altra il fisco americano che ha preso di mira dei repubblicani, altro scandalo gravissimo, dall'altra ancora ieri mattina da Mosca abbiamo saputo che un diplomatico americano, Ryan Fogel, è stato arrestato perché è smascherato come una spia della CIA, aveva una parrucca, aveva offerto $1 milione a una controparte russa che avrebbe dovuto rivelare dei segreti, gli aveva dato persino dei conti Gmail dove riversare queste informazioni. Grande imbarazzo, poi Fogel è stato rilasciato ed è stato espulso dalla Russia, di nuovo imbarazzo ovviamente a Washington. Infine le audizioni su Bengasi, ecco, anche queste sono molto gravi, non soltanto per Barack Obama ma anche per il segretario di Stato Hillary Clinton. L'idea è che possa esserci stato un tentativo di cover up. This was a very serious leak, and a very very serious leak. I've been a prosecutor since 1976 and I have to say that this is among, if not the most serious, it is within the top 2 or 3 most serious leaks that I've ever seen. It put the American people at risk. Ma torno a dire ieri alla questione della AP che ha dominato, perché, beh, insomma, qui c'è qualche cosa di molto serio, di molto grave. C'è una possibile violazione del primo emendamento della Costituzione che protegge e tutela la libertà di stampa, e su questo avete sentito poco fa Eric Holder, il segretario alla giustizia, il quale intanto si era astenuto dall'intervenire direttamente in questo caso, aveva delegato il suo numero 2, e Fogel, avete sentito le sue parole, dice: questo è stato un caso gravissimo di violazione della sicurezza nazionale. Ci deve essere sempre un equilibrio tra quella che è naturalmente la libertà di stampa, che noi incoraggiamo, la libertà di investigare sulle attività del governo, sulle attività di chiunque, e in realtà ricevere da qualcuno delle informazioni in modo illegale o comunque delle informazioni che possono mettere a rischio la sicurezza degli Stati Uniti. Dunque su questo punto l'amministrazione tiene duro e dice che aveva il diritto di fare quello che ha fatto. Però l'inchiesta a questo punto sicuramente arriverà in Parlamento, dove i repubblicani non aspettano di meglio per poter attaccare l'amministrazione, soprattutto dopo aver scoperto che l'IRS aveva preso di mira alcuni repubblicani, alcuni esponenti dei Tea Party, e sembra tra l'altro che questa vicenda andasse avanti da almeno un paio d'anni, dal 2011. In Parlamento c'erano dei senatori che avevano denunciato degli abusi di potere da parte dell'amministrazione, da parte del fisco. Si diceva che l'ordine veniva dall'alto, veniva da Barack Obama. Su questo Barack Obama ha reagito in modo deciso, i colpevoli saranno puniti, ci si aspettano già delle dimissioni in queste ore, ma resta l'ombra comunque di una serie di vicende tutte negative, tutte contro la protezione dei diritti civili che dovrebbero essere così cari proprio a Barack Obama e che creano imbarazzo a Washington, non solo per il presidente ma per il Partito Democratico. So the whole thing defies logic, and the fact that this keeps on getting churned out frankly has a lot to do with political motivations. We've had folks who have challenged Hillary Clinton's integrity, Susan Rice's integrity. L'unico fronte su cui il presidente ha rilanciato è stato Bengasi. Questa è una fantasia dei repubblicani, ha detto. E resta il fatto che per ora le brutte notizie sono contro l'amministrazione e non a favore. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo dedicato questa puntata soprattutto a storie di spionaggio interno contro giornalisti della P, spionaggio fuori a Mosca con un diplomatico espulso, il fisco che indaga, insomma, lo spionaggio, retroscena, le trame, la maledizione del secondo mandato di Obama imperversa. E dunque, per la canzone del giorno vi propongo From Russia with Love, tema storico di 007. I suddenly knew you'd care. To you from Russia with love. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.